Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buon sabato sera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri che parlano soprattutto di etica, ovviamente l'etica vista nella prospettiva dell'economia e sappiamo quanto ci sia bisogno di etica in questa fase in cui la crisi economica ha messo a nudo la fragilità del sistema e la necessità anche di avere dei principi di fondo validi. Ecco, ma andiamo subito nel merito di questi libri. Parliamo del libro Capitalismo prossimo venturo, etica, regole e prassi, un libro che è composto da moltissimi contributi e abbiamo con noi uno degli autori di questi contributi che è il professor Flavio Felice. Buonasera professor Felice. Buonasera a lei direttore. Professor Felice è appunto docente di economia presso la Pontificia Università Lateranense ed è responsabile presidente del centro studi Acton Tocqueville. L'altro libro di cui parliamo è Le 11 regole del bene comune di Amedeo Nigra. Buonasera avvocato Nigra. Buonasera. Un libro in cui si parla dei principi proposti da Luci dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti per un'economia ideale che sappia correre, ma che correndo trani anche la solidarietà. Allora, iniziamo da questo libro, edito dall'Università Bocconi, editore Capitalismo prossimo venturo, etica, regole e prassi. Professor Felice, questo libro è all'interno di un progetto di studio. Che tipo di progetto? Sì, la ringrazio della domanda. Si tratta di un progetto che riguarda in modo particolare i curatori di questo volume. Vorrei precisare che io sono semplicemente uno dei tanti che hanno contribuito, ma i professori De Luca, Fitoussi e McCormick hanno ideato questo progetto che nasce da un'esigenza, quella di considerare la crisi che stiamo vivendo, la crisi economica e finanziaria, non soltanto da un punto di vista economico, ma considerare l'economia come una sorta di precipitazione di una serie di questioni che stanno a monte, questioni di ordine culturale, politico, etico. Di qui l'esigenza di mettere insieme persone che vengono da diversi ambiti disciplinari, con diverse competenze e anche con diverse impostazioni, per ragionare su valori fondamentali che i curatori hanno ritenuto necessari per interrogarsi sulle prospettive che questa crisi in qualche modo apre. Dunque, accanto a questi valori fondamentali, l'esigenza di considerare alcuni aspetti fondamentali, la prospettiva culturale, quella economica e quella politico-regolamentare. Ecco, infatti questo libro nasce un po' da un progetto che mette al centro il rinnovamento dell'uomo e del senso della vita, un rinnovamento appunto dell'uomo che sapremo scegliere per noi stessi e per il bene comune, come dice appunto il sommario di copertina. E come ricordava il professor Felice, si tratta di numerosi saggi, appunto da De Luca, Fitoussi. C'è anche Ettore Gotti Tedeschi con Il futuro del capitalismo dipende dall'uomo futuro, Gustavo Visentini, Il futuro del capitalismo in Europa, Diego De Felice, I principi di sussidiarietà orizzontale, Michele Bagella, La riforma del presidente Obama, Franco Bruni, Ripristinare le regole e altri contributi, appunto tutti nella prospettiva di mettere a fuoco i problemi attuali della società. E in particolare il contributo di Fabio Felice riguarda le prospettive dell'economia sociale di mercato, una realtà, professor Felice, è molto attuale, una economia sociale di mercato. In 30 secondi che cosa si intende? Ma io sono partito da questa domanda e ci troviamo di fronte ad una crisi del sistema, ovvero ad una crisi all'interno del sistema. Sulla base di questa domanda ho cercato di analizzare la situazione e la risposta che ho tentato di offrire è quella di che si tratti di una crisi all'interno di questo sistema. L'economia sociale di mercato offre una risposta esattamente a queste domande, a questa domanda indicando il mercato non come un male necessario al quale dobbiamo necessariamente cedere, ovvero un bene supremo al quale non possiamo inchinarci. No, si tratta di uno strumento per l'uomo e che l'uomo può regolare a tal punto da renderlo funzionale alle sue esigenze e ai suoi bisogni. Ecco, grazie. Allora passerei ad Amedeo Nigra, avvocato Nigra. Le 11 regole del bene comune, anche questo libro raccoglie molti contributi anche esterni che hanno portato nell'ambito della discussione Regione, il Luci, il Gruppo Lombardo, ad elaborare appunto questo progetto e queste tesi. Le 11 regole sembra che abbiate voluto fare un passo in avanti rispetto al Decalogo, una in più rispetto ai 10 comandamenti, Avvocato Nigra. Esatto, beh, noi ci abbiamo tenuto a mettere 11 regole per non apparire che ci proponessimo come il famoso Decalogo. E la prima cosa che ci siamo posti come obiettivo è stata la semplicità, perché tutti parlano di bene comune, però il bene comune non è definito in modo concreto né dalle regole dello Stato né dalla cultura. Così ci siamo posti l'obiettivo di spiegare in concreto cosa possano essere queste regole. E quindi abbiamo fatto un percorso attraverso Lucid, Gruppo Regionale Lombardo, un percorso che è durato 3 anni, dal 2006 alla fine del 2009, per interrogare manager, studiosi, per definire queste regole e cosa sia in pratica il bene comune. E devo dire che questo è il primo e unico libro che definisce in qualche modo concretamente il bene comune. Un altro obiettivo che ci siamo dati è stato quello di dire delle cose semplici e quindi di riscoprire cosa deve fare in concreto un operatore per poter contribuire al bene comune. E qui emerge una importantissima regola formata dalla dottrina sociale della Chiesa e che in fondo è una regola che risale ancora ad Aristotele e a San Tommaso, è quella che per parlarsi di profitto, quindi di frutto, bisogna che la situazione esistente si incrementi. Quindi la Chiesa Cattolica dice: c'è profitto quando si incrementa il bene comune. Questa è la primissima regola con cui bisogna praticamente confrontarsi quando si deve valutare cosa si deve fare in economia. Quindi avete fatto un percorso per elaborare appunto queste regole, questi principi, questi temi di fondo. Ecco, possiamo dire un po' leggendo che poi il punto di arrivo è molto vicino alla Caritas in Veritate, non poteva che essere così, una società in cui l'efficienza della società si deve affiancare anche alla solidarietà, all'apertura, alla capacità di porre in evidenza non solo i problemi strettamente economici ma anche i problemi di coesione sociale e di equità sociale complessiva, Medeo Nigra. Certo, uno dei temi più importanti che vorrei sottolineare a chi ascolta è che la Chiesa Cattolica afferma un principio molto importante che non è tanto religioso ma è umano e anche economico, ovvero tutti siamo responsabili di tutto e nelle 11 regole che abbiamo evidenziato esiste proprio, viene affermata, io credo per la prima volta, che nel rivolgersi all'incremento del bene comune non bisogna appunto rivolgersi solamente alle imprese, ma tutti sono responsabili, prima di tutto anche il settore pubblico, anche gli enti pubblici, anche lo Stato. Basti pensare che noi non abbiamo nessuna università tra le prime 100 al mondo per vedere quanto il settore pubblico possa e debba fare ancora. Poi c'è la riscoperta della semplicità. Noi parliamo sempre di entità astratte, il mercato, il bene, la burocrazia, ma parlando di bene comune si riscopre l'unità, ovvero il fatto che ciascuno può fare qualcosa. E in questo libro si fa un esempio molto pratico dicendo che se ciascuno di noi, ciascuno che lavora, lavorasse un minuto in più al giorno per tutti i giorni dell'anno e se spendesse solamente un euro in più, questo accenderebbe, metterebbe in movimento non solo l'imitazione e quindi quello che gli studiosi chiamano empathic learning, quindi l'imitazione empatica, ma soprattutto e permetterebbe a ciascuno di dare un contributo concreto, perché se noi prendiamo per tutte le persone che consumano un euro al giorno moltiplicato per 365 giorni viene fuori una finanziaria. Ecco, indubbiamente dai piccoli gesti, dalle piccole attenzioni può nascere anche appunto un progetto di coesione sociale molto forte. Forse parlare di riforma del capitalismo può essere magari ambizioso o temerario, però anche dalle piccole cose, anche dai richiami sulle piccole cose può essere importante ripartire. Qui vorrei chiedere al professor Flavio Felice, qui in questo volume molto molto ampio di 570 pagine si parla molto di sistema finanziario, di crisi finanziaria, però anche a pensare un po' in piccolo e fare dei piccoli passi può essere importante. Flavio Felice. Buona riallacciare esattamente a quanto diceva il mio interlocutore in questo caso. Il riferimento al bene comune è fondamentale, soprattutto se si considera l'evoluzione che tale concetto ha subito proprio grazie anche alla Caritas in Veritate. Cioè, il bene comune non è qualcosa di unico, di monolitico. Il bene comune è un insieme, è un sistema di istituzioni. Ciascuno di noi opera in istituzioni, chi è all'università, chi è in azienda, chi è in banca, chi è in un'impresa. Bene, tutte queste istituzioni contribuiscono al bene comune, dunque ciascuno di noi contribuisce a questo bene comune. Ed è questo, diciamo, la ricetta, il modo e il metodo più avanzato per considerare il bene comune senza cadere nella trappola e nella retorica di un bene comune garantito da un'entità astratta, ovvero da un'entità molto presente ma anche pericolosa. E speriamo anche noi di aver dato con questa nostra conversazione qualche spunto per riflettere sul bene comune. Io ringrazio Flavio Felice, il cui contributo è compreso nel libro Capitalismo Prossimo Venturo, Etica, Regole, Prassi, edito da Università Bocconi Editore, 570 pagine per 32 euro, e ringrazio anche l'avvocato Amedeo Nigra, che ha curato il libro Le 11 regole del bene comune, a presentazione di Giuseppe De Rita, edito da Marketing Sociale, 141 pagine per 9,50 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, buon sabato a tutti e l'appuntamento è per sabato prossimo.